le cose che non so, le cose che non voglio imparare, le cose che non ho, sono difficili da dimenticare, le soffro per un po', perché sono troppo statiche, la mente non ci sei più, quanto mi manchi. Dormo e non mi curo della sveglia, stacco e continuo il mio sogno sulla chiave ermetica di questa estetica. Si accende il fornello, prendo il caffè, mi addormento, Morfeo il mio gemello, sigaretta soporifera, sveglia il sonno che in me. Non mi aspettano, solo pensieri sui miei indumenti, lasciamo indietro ripensamenti, sì. Dormo e non mi curo della sveglia, la nuova ruga si fa bella, davanti allo specchio, il ferro da stiro prepara, in amida il mio soio sopra il mio letto, con le sue lame e il suo spirito, rade il silenzio che c'è. Sigaretta sopra.